303. Scaloppine di carne battuta. Prendete carne magra di bestia grossa, nettatela dai tendini e dalle pelletiche, e se non avete il tritacarne, tritatela ben fine prima col coltello e poi con la lunetta. Conditela con sale e pepe parmigiano grattato, aggiungete l'odore delle spezie, piacendovi, ma c'è il caso allora che sappia di piatto rimpolpettato. Mescolate bene e date alla carne la forma di una palla, poi con pan grattato sotto e sopra, onde non s'attacchi, tiratela col mattarello sulla spianatoia, rimuovendola spesso per farne una stiacciata sottile poco più di uno scudo. Tagliatela a pezzi quadri e larghi quanto la palma di una mano e cuoceteli in una teglia col burro. Quando le scaloppine avranno preso colore, annaffiatele con sugo di pomodoro o conserva diluita nel brodo o nell'acqua e servitele. Potete anche, senza far uso del mattarello, stiacciarle con le mani e dar loro, per più eleganza, la forma di un cuore. Avendo carne stracotta avanzata, è conveniente il farle con questa e con carne cruda mescolate insieme.